Martedì femminista autogestito. Far away from the cold night air. Ora noi già ritrovo al 87.9 per Fernando gli Snerf e Telos di Radio Onda Rossa. My goodness, are there still feminists in Italy? Ci siamo? Ci siamo, ci sono? Non mi sento io. Io ti sento. Ah, mi senti, perfetto. Queste cuffie allora sono... E voi le altre ci sentite? Ci sentite? Beh, ci sentiranno. Ok, buongiorno, buonasera. Bentrovate. Bentrovate. Eccoci, martedì autogestito da femministe lesbiche. 12 ottobre, inizia questa stagione. È il 2. È il 2, che ho detto? Sì, ormai siamo, è il 2 ottobre. È il 2 ottobre. Eh sì. Si inizia questa nuova stagione radiofonica femminista e lesbica. Che bello. Che bello. Noi siamo molto contente. Sì, molto emozionate. Certo. Ora ci troviamo in te a rappresentare tutto il gruppo che però esprime calorosamente energia e voglia di fare radio anche quest'anno. E stanno arrivando. Eh sì, salutiamo anche tutte quelle che anche l'anno scorso lo faranno di nuovo quest'anno, sono passate dalle nostre parti. E passeranno ancora. E certo. Ma allora, ma che è questa cosa del martedì? Ci racconti un po' di cosine sul martedì che sta riprendendo? Siamo al 18° anno di età di questa trasmissione, quindi è un'annata importante, siamo ormai... Abbiamo la patente, come si suol dire, e abbiamo un testo scritto così di getto che riguarda questo spazio che vi andiamo a leggere proprio in occasione di questi 18 anni, parecchi insomma. Ed eccoci qui, maggiorenni. È già il martedì autogestito da femministe e lesbiche, quest'anno compie 18 anni, dobbiamo fare anche la festa ovviamente. Certo. E come tutte noi ne ha passate tante, dal coming out del 2003, perché voi che ci ascoltate, che ascoltate la nostra storica sigla, la conoscete, e la sigla parla di martedì femminista e poi è diventato femminista e lesbico. Noi però che siamo nostalgiche abbiamo lasciato la sigla vecchia, forse dovremmo in questi 18 anni maneggiarla un po'. Vabbè. Ah, ma è così bella. È bella, infatti, non riusciamo a staccarci. È la nostra storia. Così. Comunque c'è stato un coming out nel 2003, un vero coming out in piena regola, un atto politico, la visibilità delle lesbiche. Poi è cresciuto, è cambiato, ha visto e raccontato le lotte piccole, grandi, quotidiane di tante donne, femministe e lesbiche. Ha cercato di tenere insieme, in tutti questi anni, le fila di una memoria collettiva. Ha avuto un'adolescenza turbolenta, come è giusto che sia, ha partecipato a tanti cortei. Adesso l'MFLA si sente un pochino più saggio, diciamo, ma dipende. Dai soggetti e dalle soggette, con più esperienza, ma non ha perso l'entusiasmo, la rabbia, la voglia di esserci, di raccontare il mondo dalla parte delle donne, di ospitare le voci di tante amazzoni in giro per il mondo. Ha organizzato la prima maratona radiofonica femminista e lesbica, la 24 ore, tutta in diretta, quest'anno ancora, insomma, mesi fa, per l'8 marzo, e niente, adesso è qui, sorridente, emozionata, all'inizio del nuovo anno. Il martedì è pronto a ricominciare, a far vedere il mondo con altri occhi, da un'altra prospettiva, a parlare di genere, di teorie, di politica, di femminismo, di lesbismo, di arte, di musica, di politica, ripetuto, di liberazione, di politica, ripetuto, di libri, di economia, di violenza contro le donne. Ancora qui, pronto a raccontarvi perché il martedì autogestito da femministe e lesbiche siete soprattutto voi che ci ascoltate e da 18 anni partecipate a questa avventura. E se le cose non migliorano, se l'attacco alla libertà delle donne in tutto il mondo è sempre più forte ed evidente, noi siamo ancora qui, insieme a tutte voi, a dire che non ci stiamo. Se vogliamo essere libere di scegliere, di agire, che siamo capaci di reagire e che siamo orgogliose di essere femministe e lesbiche. Eh sì, è così. Ed è vero che è uno spazio, ovviamente, che vive grazie anche a tutti i contributi, sì, diciamo, dei gruppi o delle singole. Sì, se no di che si parlerebbe, se no delle lotte delle altre. Eh certo, a noi piace molto tessere relazioni, non sempre facilissimo, però è un lavoro importante. Dai, che bisogna stare uniti. Hacia la eternidad, los lazos.